Se del falso piacere vedesti già la favolosa scena del teatro del vero, ecco il velo io discopro. Osserva e mira, mira colei che verità s'appella, vedrai che non s'adorna, è sempre bella. Con bianca veste cinta, mira come si volge al sole eterno. E quello specchio mira, che ha frane sguardo, e dall'uman pensiero il falso rende al falso, il vero al vero.